Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ogni scarafone è bella mamma sua ed è bello che sia così, non vi pare? Ma oggi vedremo i nostri bambini anche con altri occhi, perché a volte aiuta. Qui in studio con me Lucia Rizzi di SOS Tata. Ciao Lucia! Buongiorno, ciao! Lucia, tu di bambini ne vedi tanti. Tanti? A volte noi abbiamo la sensazione che siano diversi rispetto a quando noi eravamo bambini. In realtà il bambino è sempre, l'uomo è sempre uguale. Sono cuccioli di uomo. Esatto, cambiano le circostanze, chiaramente. Sì, perché l'ambiente è l'ambiente che ci condiziona. Che ci condiziona. Noi certe cose non le davamo ai nostri figli. Adesso diamo loro degli strumenti, a volte purtroppo non competono loro questi strumenti, però gli vengono dati e anche noi abbiamo degli strumenti diversi. Quindi i bambini sono uguali, ma forse sono cambiati i genitori, è questo che sono ci dici tra le righe. Sono cambiati i genitori e anche l'ambiente in cui si vive. Ed è proprio ai genitori che noi oggi ci rivolgiamo, ma non solo, anche agli nonni, agli zii, vogliamo agli insegnanti. Tutti quelli che hanno a che fare con i bambini. Vogliamo proprio costruire una puntata sulle domande, sui dubbi, sulle esperienze. Certo. Vogliamo però anche parlare dei tanti luoghi comuni che circolano sul modo di crescere dei bambini. Sì. Lucia, lo sai, che siamo tutti perfetti genitori in casa di altri. Certo, è facile, no? Allevare gli altri, dare consigli, ma poi quando i problemi ci si trova a viverli emotivamente col proprio figlio, a volte ci si perde. 800 24 00 24 per non perdervi i consigli di Lucia Rizzi di SOS Tata. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter e in nostra compagnia oggi abbiamo anche il piacere di avere il professor Luca Bernardo, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Professore, i bambini di oggi sembrano fisicamente diversi rispetto a quelli di ieri o mi sbaglio? Beh, sicuramente c'è stata un'evoluzione rispetto ai bambini di alcuni o tanti anni fa. Diciamo che soprattutto quello che è cambiato, che oggi li chiamiamo i digital native, cioè i bambini che nascono già con l'elettronica, quindi ognuno di loro sin da bambino è legato a qualcosa di elettronico, che può essere dalla musica, che può essere al cellulare a una certa età, che può essere all'iPad, all'iPod o qualsiasi altro strumento possa essere secondo loro utile. Sicuramente lo è, ma come dico sempre è necessaria anche un'alfabetizzazione dello strumento utilizzato, e questo è soprattutto a carico dei genitori, cioè insegnargli che è uno strumento che è utile ma che deve essere usato con le dovute cautele. Certo. Professor Bernardo, fisicamente sembrano più morbidi e dal punto di vista motorio un pochino più pigri. Questo è in sintesi quello che emerge dalle indagini degli ultimi anni, ma qualcosa si sta muovendo? Lo scenario sta un po' cambiando? Secondo la fotografia scattata nel 2012 dal sistema di sorveglianza Occhio alla Salute, che ha coinvolto 46.492 bambini appartenenti a 2.623 classi terze della scuola primaria, risulta che la percentuale dei bambini di 8-9 anni in sovrappeso e quelli obesi è leggermente diminuita. Infatti, i bambini in sovrappeso nel 2009 erano il 23,2%, mentre oggi sono scesi al 22,1%. La percentuale dei comportamenti sedentari mostra un piccolo miglioramento, pur rimanendo elevata. Solo il 16% dei bambini, infatti, pratica sport soltanto per un'ora a settimana, o anche meno. Il 42% ha la TV in camera. Il 36% guarda la TV o gioca con i videogiochi per più di 2 ore al giorno. E solo un bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. 800 24 00 24, se riconoscete in questo profilo i vostri figli, ma in linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Angela Spinelli, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità e uno degli esperti che ha curato il rapporto di Occhio alla Salute. Dottoressa Spinelli, benvenuta e grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, qualcosa si sta muovendo, stiamo un po' migliorando. Sì, i dati del 2012 sembrano darci un quadro leggermente migliore degli anni precedenti. Sì. E anche se naturalmente la situazione è ancora da migliorare e quindi dobbiamo darci da fare. Perché lo stile di vita è essenziale, insegnare uno stile di vita corretto ai nostri bambini, e l'esempio, come sempre, è determinante, è proprio fondamentale, perché significa investire in salute. La prevenzione inizia in fasce, dottoressa Spinelli. Sì, certamente molti comportamenti sono determinati già dall'infanzia, e quindi i genitori, la scuola, tutto l'ambiente dovrebbe aiutare nelle scelte più salutari. Certo. Come commenta, dottoressa Spinelli, questo leggero miglioramento? Che cosa prevede per il futuro? Abbiamo imboccato ormai la strada buona? Noi ce l'auguriamo, abbiamo cercato di fare molte iniziative insieme con tutti gli operatori della scuola e della sanità, proprio per cercare di modificare alcuni dei comportamenti. Quindi ci auguriamo che questi primi dati positivi che abbiamo rilevato quest'anno possano essere confermati negli anni seguenti. Allora ce la faremo. Grazie alla dottoressa Spinelli per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Lucia, insegnare ai bambini uno stile di vita sembra facile, però la strada è piena di ostacoli. Ci sono i capricci, gli amici che fanno cose diverse, gli impegni dei genitori, il tempo che è sempre poco. Insomma. Sicuramente, però io penso che bisogna fare proprio un po' di esame di coscienza noi adulti che siamo a contatti con i bambini, e dirci come io vorrei vivere e come vorrei che vivesse il mio bambino. A questo punto tutti noi vorremmo essere sani, vorremmo essere un po' più atletici, vorremmo avere interessi. Cominciamo, perché noi passiamo ai nostri figli solo quello che siamo. Allora, se io voglio camminare al sabato e la domenica, quando sono a casa, organizzo con la famiglia la domenica mattina, magari anche semplicemente andando a messa a piedi, per dire, o andando dai nonni a piedi, dei momenti in cui io uso il mio corpo. Sono alcuni dei consigli di spegnete la TV. Esatto. Molti consigli si ritrovano anche in Fate Famiglia, che è un libro bellissimo. Certo. In cui tu, Lucia, passi per la donna delle regole. In realtà io credo che il tuo merito sia quello di trasmettere ai genitori che stanno crescendo dei figli anche il piacere di divertirsi crescendo, dando a sé per primi delle regole. Certo, perché la regola è semplicemente la ricetta di come si fa ad essere più felici. Io dico sempre, la felicità è una buona abitudine e possiamo sicuramente costruircela con niente. È vero che io non ho, per dire, non posso andare in palestra, però posso fare la mia bella corsetta, magari facendo una gara con mio figlio di 3 anni che arriva prima di me. Ahimè, allora lì siamo messi male. Bisogna lasciarli vincere i bambini o no? Toglimi diciamo questa curiosità. Che, non bisogna farli vincere, però all'inizio, per fargli vedere che ce la fanno, dobbiamo fare in modo che loro si sentano di successo. Se io li smonto, non sei capace neanche di camminare dritto, è chiaro che quello non camminerà più a un certo punto. Professor Bernardo, il cammino, nei dati che abbiamo sentito si sottolineava che i bambini, solo un bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. Invece lei, come pediatra, sicuramente insegna alle mamme e ai genitori in genere quanto il movimento sia importante per la crescita di un bambino e abbia anche un ruolo preventivo nei confronti di malattie. Professore. Assolutamente sì, un po' tutte le cose messe insieme che sono state dette fino ad adesso. Certamente un bambino deve far movimento sin da piccolo e sin da quando inizia a camminare, e soprattutto quando si va all'asilo, alla scuola materna, quando si va, ovviamente che non sia in passeggino, quando si va a scuola, il consiglio è, se eventualmente si prendesse la macchina, il genitore la posteggi non so, un chilometro e mezzo prima, e si fa una bella passeggiata col proprio figlio, la certo. propria figlia, che è anche un momento di relazione importante, tra parentesi, fondamentale, ma nel contempo fa bene al genitore, ma fa bene anche al bambino, o anche assegnandogli dei piccoli compiti a casa di movimento, cioè rifarsi il letto, andare a fare la spesa, ma non prendere l'ascensore andando giù dalle scale, e quant'altro coinvolga nel movimento il proprio bambino. Certo. Abbiamo Marco che ci chiama da Padova all'800240024. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Siamo Niente, qua. Io volevo fare una considerazione, domanda considerazione. Io sono ho 38 anni, sono padre di due bambine di 6 e 4 anni. A me sta molto a cuore l'aspetto sport, perché ho sempre praticato sport nella mia vita e attualmente alleno a calcio. Sì. Mi rendo conto però, e ci soffro un po', che è difficile far praticare sport a una bambina di 6 anni, mia figlia fa la prima, sì. Elementare, che per motivi di lavoro miei e di mia moglie finisce scuola alle 4:30, dopo deve fare i compiti, ragione, ovviamente Marco, è stanca, certo. E quindi manca anche praticamente il tempo per portare questi ragazzini, questi bambini in una piscina o in una palestra da qualche parte. È un grande sacrificio per le famiglie, certo. Oggi, certo. È vero. Proprio la mancanza di tempo, i bambini ovviamente sono stanchi dopo una giornata di scuola e hanno anche bisogno di rilassarsi un pochettino a casa per recuperare insomma le forze, farsi un pisolino piuttosto che guardare un'oretta di cartoni animati, perché a 6 anni anche un'oretta è un po' troppo. Lucia dice un'oretta un po' troppo. È un po' troppo. Facciamo mezz'oretta, mezz'oretta, dai, che così Lucia è contenta. Se viene a casa alle 4:30. Mezz'ora di cartoni così, e poi magari una mezz'oretta la porti giù in un cortile da qualche parte a fare un po' di moto, giocare un po' a palla, mettete un piccolo canestro anche sulla porta di una camera, fateli saltare. Anche Lucia, io penso che anche Marco abbia sottolineato un aspetto importante: ci sono delle attività, degli sport, professor Bernardo, che si imparano da piccoli, ad esempio il nuoto è uno di questi, sì, dove sì. bisogna proprio, oppure le bambine, certo. Marco ha due bambine, molto certo. spesso le bambine vengono portate a fare danza, e comunque certo. ha un è importante un'utilità sicuramente, anche come a livello di socializzazione, certo. In effetti, professor Bernardo, i genitori di tempo ne hanno poco, soprattutto se lavorano, da lì insomma non sembra si possa uscire da questa situazione. È un impasse che pesa ai genitori, che si sentono dire: fate muovere i vostri figli, non metteteli davanti alla TV, la TV non deve essere una babysitter. Ma professor Bernardo, lei che dice? Sicuramente oggi il tempo è tiranno, perché spesso entrambi i genitori lavorano, e molto spesso magari quello che veniva tempo fa, cioè di avere dei parenti intorno, che i nonni, quindi rivalutare molto la figura dei nonni che possono portarle in palestra qualora si abbiano degli zii. Il fondamentale secondo me è, uno, che lo sport, soprattutto nei bambini piccoli, sia di carattere ludico, sportivo, sì. e soprattutto, proprio per evitare magari che vedano il cartone animato, che va bene mezz'oretta, ma oppure che magari appunto perché stanchi la giornata si fermano, si mettono sul divano, si buttano sul letto, facciamogli fare uno sport che scelgano loro, perché il problema spesso che noi vediamo è che lo sport fatto dai bambini e dai ragazzi è quello che vorrebbero, pretenderebbero i genitori, e non è così la regola del gioco, diciamo. Sara da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, sono Sara da Bergamo. Sì. Ho due bambini, 10 e 6 anni, sì. e la mia prima figlia è molto molto pigra, per cui per cercare di stimolarla un po' mi sono messa in gioco anch'io, chiudo prima il negozio il giorno, il martedì, e alleno la sua squadra di pallavolo. Oh, che bello! Lei mi vede. Brava. Stare con lei, si diverte, e quindi niente, mi diverto anch'io e perdo qualche chilo, perché qualche chilo in più. Vede? Mi diverto, insomma. Sara, un'ottima idea. Certo. Bisogna saper giocare a pallavolo in questo caso. Io ad esempio non sarei in grado. Mi piace questa cosa, perché suggerirei a questa mamma così brava e coraggiosa, per esempio, se lei sa che nella classe di sua figlia c'è un'altra bambina che ha bisogno, invece, che magari non ha i genitori, eccetera, provi a dire: vabbè, vuoi venire con noi? Cioè, questa collaborazione tra adulti che si rendono conto di avere dei problemi ci può essere. Anzi, perché su una classe ci sono 25 bambini, probabilmente ce ne sono senz'altro due o tre che fanno la stessa strada per andare a casa. E magari il genitore non può accompagnarlo a piedi, ma l'altro genitore può fare un turno. Quindi, Lucia, tu suggerisci genitori alleatevi. Creiamo delle alleanze. Siamo noi sempre lo Stato, ragazzi, siamo noi. 800240024, i bambini devono avere il buon esempio, dobbiamo farli muovere, è una cosa un po' difficile, comunque il tempo si trova, ci si allea, ci si organizza. E poi c'è anche l'altro grande capitolo della dieta, che insieme al movimento sono i pilastri dello stile di vita. Tavola si diventa grande, ma a tavola iniziano spesso i problemi. Ma noi oggi vogliamo darvi una mano. Intanto andiamo a vedere com'è la situazione. Voi lo sapete bene, nelle vostre case ci sono bambini che amano mangiare in modo molto monotono, hanno due o tre alimenti che vorrebbero portare sempre in tavola, altri che rifiutano completamente, alcuni le verdure in testa. Come fare per coniugare, per mettere in tavola, come si dice sempre, gusto e salute? Andiamo a sentire come si comportano i nostri bambini. L'educazione alimentare resta cruciale anche per il sistema di sorveglianza Occhio alla Salute. Dalla ricerca risulta che sono ancora troppo frequenti tra i bambini le abitudini che possono favorire l'aumento di peso, specie se concomitanti. In particolare, il 9% dei bambini salta la prima colazione e il 31% fa una colazione non adeguata, ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine. Il 67% fa una merenda di metà mattina troppo abbondante. Il 21% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta o verdura. Il 43% consuma abitualmente bevande zuccherate o gassate. Cicciottella è una bambina fatta a forma di bignè, che non vuol diventare un grissino più magro di te. Tieni! E in linea con noi abbiamo la dottoressa Paola Reverso, medico nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me Più Te. Buongiorno dottoressa Reverso, bentornata. Buongiorno, grazie Nicoletta. Allora iniziamo a chiedere ai nostri ascoltatori che hanno figli a scuola che cosa hanno messo nello zaino dei loro figli per il spuntino di metà mattina. I dati dicono che solitamente la merenda di metà mattina è troppo abbondante. Abbiamo un bel 67% del campione. Lei, dottoressa Reverso, però nel corso della trasmissione ci aiuterà a fare pace a tavola con i nostri figli, magari suggerendoci modi alternativi per far consumare loro le verdure. Vogliamo stuzzicare subito la curiosità dei nostri ascoltatori? Beh, uno stratagemma molto utile, molto semplice, è quello di tostare in una padella antiaderente, tostare proprio leggermente, dei semi di girasole o di zucca, perché si aromatizzano. Basta poi aggiungerli alle verdure con del buon olio extravergine d'oliva, danno quel sapore in più, quell'aroma, che ai bambini comunque stuzzica e poi sgranocchiano. E quindi questo rende le verdure un pochino più appetibili. Se no vale sempre il trucchetto di nasconderla in ripieni. E soprattutto, dottoressa Reverso, oggi daremo anche consigli ai nostri amici che potranno chiamare per avere proprio anche delle ricettine, dei trucchetti per aiutare i genitori a introdurre nella dieta dei bambini anche alimenti che compaiono molto poco. Sto pensando ai legumi, dottoressa Reverso. I legumi sì, sono un problema, diciamo così, perché giustamente i bambini li vedono solo sotto forma di zuppa e magari si annoiano un po', finché sono piccolini l'accettano volentieri. Uno stratagemma può essere quello di utilizzare una qualità di fagioli che comunque si trova facilmente in Italia, sono i fagioli a zucchi, non sono proprio nostri come tradizione, ma si trovano. Questi fagioli sono particolarmente dolci e farinosi, basta frullare con del cacao, si trovano già in scatola, quindi già pronti, si scolano, si frullano con del cacao, delle buone nocciole tritate, farina di mandorle oppure cocco. succo, e poi si aggiunge, se per rendere più morbido l'impasto, della bevanda di riso aromatizzata alla vaniglia, oppure un pochino di ricotta, un pochino di latte vaccino. Non occorre cottura, non occorre niente, si ha questo impasto bello morbido e malleabile che lo si può dare proprio anche al bambino, e si fanno delle palline piccoline, poi si possono passare nelle nocciole tostate tritate, oppure nella farina di mandorlo di cocco, e si mettono nel frigorifero un paio d'ore. Dei bonbon. Dei cioccolatini, diventano veramente deliziosi. Ecco, questo è un modo alternativo di mangiare i legumi. Certo. Noi li pensiamo sempre in zuppa, quindi i bambini non li mangeranno mai. Invece la dottoressa Reverso ci insegna a preparare i legumi con un dolce. Sì, come un dolce. 800 24 00 24, prima aspettiamo naturalmente le vostre chiamate, i vostri consigli, la merenda che avete messo nello zaino del vostro bambino. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Essere genitore è un compito particolarmente intenso e impegnativo, anche perché i nostri figli possono chiederci cose che nessun altro chiederebbe e in modi che nessun altro userebbe. Ci vedono da vicino, come nessun altro fa, e tengono davanti a noi degli specchi in cui rifletterci. Così facendo, ci offrono ripetute possibilità di vedere noi stessi sotto una luce diversa e di lavorare consapevolmente, chiedendoci che cosa possiamo imparare dalle situazioni che si presentano con loro. Mila e John Kabat-Zinn. Essere e benessere. I giorni più felici di tuo figlio stanno per arrivare. Dipende da te. Carlos Gonzalez. Pediatra di riconosciuto prestigio, autore del libro Besame Mucho, Carlos Gonzalez ha scritto questo libro in difesa del bambino contro la teoria che propone l'uso della forza, del castigo o dell'eccessiva disciplina. Certo. Professor Bernardo, i nostri bambini per crescere hanno bisogno dell'esempio dei genitori e di regole, suggerisce Lucia Rizzi, ma... professor Bernardo, arrivano molti messaggi al 349-238-6666 di ascoltatori che mi chiedono: ma parlate anche dell'altezza e del peso del bambino, quando un bambino è sovrappeso? E ci sono alcuni genitori che mi scrivono: il mio bambino è molto sveglio ma sembra più piccolo, più minuto degli altri. Non ci sono solamente i bambini cicciottelli, ci sono anche i bambini gracilini. Professor Bernardo, ci aiuta un po' ad orientarci, a tranquillizzare magari i genitori? Sì, innanzitutto direi che sono d'accordo sul fatto che i bambini abbiano delle regole. Le regole devono arrivare dalla famiglia, che da sempre e sempre deve essere un modello, assolutamente contrario, completamente contrario a pene di qualsiasi genere o castighi, men che meno quelli corporali, perché non sono né utili né servono. Certo. L'educazione si fa in famiglia, ma si fa parlando. Per quanto riguarda l'altezza, ovviamente l'altezza dei genitori è fondamentale importanza, però ricordiamo che non è detto che un bambino che è piccolino, sembra apparentemente piccolino guardando ovviamente la classe, perché poi il paragone i genitori lo fanno sulla classe generalmente o in palestra quando portano il piccolo, non è detto che questo bambino o questa bambina debba rimanere così piccolo e quindi non abbia un eventuale o potenziale scatto di crescita nell'età scolare di pre e adolescenza. Come si dice, diamogli tempo. Esatto. Appunto. Attenzione che però esiste anche però una questione di patologia, cioè bambini che sono davvero piccolini e vanno sotto alcune deviazioni standard delle nostre curve di crescita, che possono avere un problema diverso, cioè un deficit dell'ormone della crescita. Questo invece è qualcos'altro ed è qualcosa per cui se ne deve occupare il pediatra insieme ai genitori per arrivare a una eventuale potenziale diagnosi. Fondamentale e importante soprattutto, e questo lo dico sempre anche ai bambini che arrivano un po' da tutta Italia al nostro centro, è che la bambina non debba avere ancora mestruato prima della diagnosi, perché sennò purtroppo, potendo utilizzare l'ormone della crescita, poco fa in altezza. Quindi certo, è fondamentale che questa diagnosi venga fatta più precocemente possibile. Andiamo ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24, abbiamo Claudia dalla provincia di Venezia, Massimiliano da Catania e Stefania da Roma, quindi siamo distribuite lungo tutto lo stivale. Buongiorno Claudia e benvenuta. Buongiorno, sono Claudia. Io chiamo per ricollegarmi al discorso che avete fatto all'inizio, dicendo che non è che un bambino si sente diverso perché non ha la televisione o perché non ha tutti questi giochi elettronici, perché mio figlio, che ha 10 anni, Noi a casa non abbiamo la televisione, non abbiamo nessun tipo di gioco elettronico ed è un bambino che è felicissimo, estremamente socievole ed estremamente adattabile ad ogni situazione. È creativo, certo. E quindi penso che il rilassamento non è che perché hanno lavorato tutto il giorno, il rilassamento è la televisione. Il rilassamento può essere magari creare qualcosa con il genitore. Ecco, volevo sfatare questo mito del fatto che chi ha qualcosa di diverso, che non sia la... Assolutamente, certo. Anzi, io Claudia la ringrazio perché questa puntata è proprio aperta a tutti i genitori, ma io come Lucia dico alla famiglia in genere, mi piacciono le famiglie che coinvolgono quindi anche gli zii, gli amici, certo, per dare consigli, perché i bambini che cresciamo sono, secondo la genitorialità sociale, sono proprio i nostri bambini. Certo. Il genitore che ha piacere di lasciare il bambino magari può farlo in sua compagnia una mezz'oretta davanti alla TV, non va certo né criticato né la TV non va demonizzata, come sempre ci vuole misura. Il gioco con i nostri bambini è assolutamente importante, come ci racconta Claudia, che ha un bambino che vive senza TV, certo, e ormai sono molti, eppure è un bambino felicissimo. Felice. Questo non gli toglie nulla. Massimiliano, buongiorno da Catania, che mi racconta? Buongiorno. Saluto intanto la mitica tata Lucia. Grazie. Mi dica. Allora, ascolti, io sono un papà un po' preoccupato perché Samuele ha 8 anni, frequenta benissimo la scuola. Lui fa addirittura 4 volte la settimana, un po' intervallate, diciamo, lo sport fra la piscina e la pallavolo, della pallacanestro, scusi. Il discorso è questo, che poi ci sono i compiti, poi giustamente chiede magari di far vedere quest'oretta i cartoni oppure di giocare al computer, e iniziano a diventare sempre più frequenti però questi mal di testa. Sì. Allora io mi chiedo se da un punto di vista, diciamo, questa cosa, perché la pediatra mi dice no vabbè, andiamo avanti, non c'è niente da controllare. Noi il nostro pediatra ce l'abbiamo, professor Bernardo. Quando un mal di testa di un ragazzino deve essere portato all'attenzione del medico? Allora, innanzitutto la cefalea viene definita un sintomo e non una malattia di per sé, nel senso che è spia, può essere spia di qualche cosa. Sì. Diciamo che quando ci dobbiamo preoccupare, quando diventa una cosa continua, costante, cioè quando il bambino si lamenta in maniera continuativa, sì, del problema, allora a quel punto va indagato, ma va indagato per escludere eventuali patologie, magari non per fare una diagnosi, ma per escludere patologie. Quindi sicuramente il consiglio è di indagare questa cefalea, anche perché un bambino in età scolare è un bambino che sta sostanzialmente bene, poi mi sentivo che è assolutamente uno sportivo rispetto anche a tanti altri bambini, quindi non ha motivazioni oggettive perché debba avere cefalea. Poi ripeto, può essere qualcosa che si porti dal punto di vista genetico, può essere qualcosa che si porti dal punto di vista come patologia o spia di patologia, però sicuramente io indagherei per escludere. Questo non vuol dire che bisogna fare cose eroiche, ma sicuramente andare un po' oltre quella che è la visita classica pediatrica. Grazie al professor Bernardo, salutiamo allora Massimiliano invitandogli a tranquillizzarsi. Il, sì, bambino cresce forte, sano e sereno, fa i compiti, fa sport. Certo. E il modo in cui i nostri bambini socializzano. Io a volte l'abbinerei anche al bambino che dice sono stanco. Di fatto non è stanco, è magari annoiato di quello che sta facendo, vorrebbe cambiare, per cui escludendo naturalmente col pediatra qualsiasi patologia, indagherei un po' se magari è un po' una questione di voglia di cambiare qualche cosa nel suo ritmo di vita. Ecco. Ritorniamo nel laboratorio della nostra dottoressa Paola Reverso, che aiuta i genitori a far mangiare i bambini una dieta varia, sana ed equilibrata. Abbiamo Stefania che ci chiama da Roma. Prima, buongiorno Stefania, benvenuta. Buongiorno a voi e complimenti a entrambe. Grazie. Io ho questa domanda, ho un bambino di 5 anni e mezzo che la mattina difficilmente mi fa colazione, nel senso che beve volentieri il latte col cacao. Sì. Però siccome è abituato a scuola che fa la merenda intorno alle 9, sì, a casa non riesco a farlo mangiare, tant'è vero che questa abitudine la mantiene anche il weekend, quindi sì, si alza e beve il latte e verso le 10, 10 e mezza, dipende, mi chiede qualcosa da mangiare. Fa una merendina di rinforzo. Allora, esatto, diamo il tempo alla dottoressa Reverso di elaborare un trucchetto, una ricetta per la nostra Stefania da Roma, prima di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. 800 24 0024. Vi aspettiamo. Guardiamo i nostri figli e ci domandiamo quale giorno, quale frase, Quale avventura rimarrà registrata nella loro memoria per sempre? Quali colori rimarranno inchiodati alla loro anima? E quale allegria conserveranno come un tesoro? Carlos González. Essere e benessere. Dottoressa Reversi, iniziamo dalla colazione. Intanto voglio anticiparle che sono molti gli ascoltatori che mi hanno scritto che mandano i bambini a scuola con frutta oppure dei biscottini che preparano in biscotti casa. Integrali, segno che qualche cosa si sta muovendo. Dottoressa Reverso, che cosa ha pensato per la nostra Stefania? Un bambino che al mattino beve il latte e poi ha piacere di fare la colazione, direi in un orario un po' posticipato rispetto a quello proposto dalla mamma. Sì, però comunque qualcosa bisogna dare a questo bambino appena sveglio. Potrebbe essere un utile stratagemma che tra l'altro richiede anche poco impegno da parte della mamma, che di solito al mattino sì, giustamente è ha di un po' corsa. Di fretta, che è quello di frullare questo latte. Possiamo usare solo latte vaccino oppure possiamo usare metà latte vaccino e metà bevanda di cereali. Perché? Perché così rimane anche un pochino più leggero e poi le bevande di cereali spesso sono arricchite, aromatizzata la vaniglia, il cacao, la nocciola, ci facilitano un po' la situazione. Lo frulliamo e aggiungiamo mezza banana, magari un cucchiaio di cacao amaro, un buon cacao amaro, due cucchini di miele oppure di zucchero di canna o di sciroppo d'acero che aromatizza, e gli diamo da bere questo frullato, almeno gli diamo un po' di sostanza, come dicevano le nostre nonne, devi prendere sostanza. Quindi dottoressa Reverso, naturalmente tutti questi sfizietti, trucchi, cucchietti, ricettine le mettiamo della dottoressa Reverso, le trasferiamo sulla pagina del programma. Intanto abbiamo Francesco che ci chiama da Napoli. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a buongiorno. Voi. Io insomma sono un papà, mi occupo spesso, insomma, anzi quasi sempre della colazione di mia bimba che ha 2 anni, per sì, quanto mia moglie scende, va al lavoro molto prima di me. Certo. E quindi vabbè. Come insomma, se la cava? Me la cavo bene. Ma me la si cavo sente bene dalla voce, perché io ho detto vedrai che Francesco ci dice qualche certo, cosa. Francesco. Me la cavo bene, diciamo, non ho purtroppo il tempo di insomma fare cose più elaborate, tipo questi frullati, per carità, sono sicuramente. Beh, ma il frullato, Francesco, non si fermi al frullato, basta mettere tutto dentro il bicchierone, si fa ciuff e va da solo. Questo lo faccio anch'io. Certo. No, me la cavo bene. Mia moglie, insomma, la sera riesce a fare, insomma, qualche dolce fatto in casa, sempre un pan di Spagna. Quando non riusciamo, insomma, il biscotto integrale, evitando, insomma, cioè, il dolce lo fa sua moglie, però lui dice quando non riusciamo parla al plurale. Francesco. Va bene, Francesco, quindi insomma vi dividete un po' il si può fare, insomma, si può fare. Si può fare. E invece volevo fare anche un altro intervento in merito, insomma, alle verdure. Cioè, io, insomma, sono giovane, no? Sono dell'82, e quindi quando ero piccolo non è che era preistoria, però mi ricordo che nel momento in cui io mi rifiutavo di mangiare, insomma, verdure, non è che mia mamma mi infilava la zucchina nel babà per farmela mangiare, o mettevo i fagioli nei Ferrero Rocher. Cioè, secondo me qua c'è anche un discorso da fare in merito all'educazione, no? Questo è un po' anche un effetto di come noi teniamo a vizio le nostre figli. Certo. Cioè, mia figlia mangia le verdure nello stesso modo in cui ne mangiamo noi. Francesco, calzare. Lei ha servito una palla d'oro a Lucia Rizzi. Certo. Mi è piaciuto certo. No, mi metteva lo zucchino nel babà. È vero. Vabbè, questo comunque, Francesco, è il fate famiglia, cioè quello che fa la famiglia il bambino imita e fa. Se nel piatto c'è la zucchina, si mangia la zucchina. Magari se ne mangia un pezzettino, un giorno dopo un pezzettino e mezzo, l'altro giorno due, poi si mangiano le zucchine. Però se non ci riuscite, volete un aiuto, ci sono i suggerimenti della dottoressa Reverso che riesce a fare a infilare delle magie. Le zucchine nei babà. Dicevamo dei nostri bambini, si stanno muovendo ma sono ancora un pochino pigri, sono un po' morbidi ma si stanno un po' sfilando, sembrano però molto svegli, sono i nativi digitali. Ne parliamo col professor Giacomo Stella. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, grazie. Sono professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Ma professore, sono davvero più svegli o vivono in un ambiente più stimolante rispetto a noi? direi questa seconda, non è affatto dimostrato che i bambini di oggi sono più svegli dei bambini del passato. Certamente hanno molti stimoli, molti più stimoli probabilmente, perché se noi consideriamo le famiglie di qualche decennio fa, c'erano molti bambini, molti più bambini e meno adulti, quindi il rapporto tra adulti e bambini si è rovesciato. Prima c'erano più bambini che adulti, adesso ci sono più adulti che bambini. Secondo elemento, sono entrati nelle nostre case in modo preponderante degli strumenti che portano molte informazioni in movimento, cioè la televisione, ma anche la radio, ma anche il computer, determinano un incremento di stimoli che è molto rilevante, ovviamente. E sviluppano alcune abilità, professor Stella, indubbiamente. Certo, noi dobbiamo tenere presente che il piccolo Duomo, cioè noi, sì, quando eravamo piccoli, e i nostri figli quindi, siamo delle macchine di imitazione. Uno dei principi dell'apprendimento è l'imitazione, come hanno dimostrato anche i colleghi italiani che hanno scoperto i neuroni specchio, no? Sì. E quindi noi siamo delle spugne che assorbono, e quindi se vediamo tante persone che vanno in bicicletta o che saltano la corda, impariamo prima a fare quello. Se vediamo tante persone che durante il giorno usano il dito per creare qualcosa su uno schermo, per determinare degli eventi, tutti si stupiscono dicendo il mio bambino a 8 mesi fa una telefonata, è partita una telefonata, era il mio bambino, sì, perché il bambino ha visto tante volte l'adulto fare, certo, questo gesto, certo. E siccome abbiamo questa grandissima capacità innata, sì, sottolineo, innata, innata di apprendere, e allora facciamo queste cose, perché oggi i nostri figli sono contornati da questo tipo di, certo, stimolo. Professore, però come la dieta deve essere varia ed equilibrata, come sottolineavano sia il professor Bernardo che la dottoressa Reverso, anche gli stimoli a cui esponiamo i nostri bambini devono essere vari. Quindi, bene, la tecnologia, computer nelle dosi corrette, con vicino il genitore, ma facciamogli fare anche altro per sviluppare altre abilità. I giochi, i libri, il movimento, sono tutte fonti di apprendimento, cioè l'importante secondo me è non delegare l'intelligenza e la personalità del bambino a un mezzo come il computer che lui stesso ha inventato, ma che deve poi continuare a reinventare secondo le sue emozioni. Ringrazio il professor Stella per essere stato con noi. Comunque questo rischio non si corre, per fortuna l'intelligenza si manifesterà comunque. Ecco, certo. Su questo. Anche se come per l'alimentazione si può crescere meglio, per esempio avvicinando anche al computer i vecchi giochi a incastro e le costruzioni, certo, ecco, perché allenano un altro tipo di attenzione e di intelligenza. Ci alleniamo, certo, e l'allenamento deve essere vario, con tanti stimoli. Devo salutarvi, saluto naturalmente Lucia Rizzi di SOS, grazie, Tata, ricordando spegnete la TV e fate famiglia, certo, i suoi libri che sono diventati dei bestseller, la dottoressa Paola Reverso per essere stata con noi, tornerà presto a trovarci, il professor Bernardo. Grazie a voi, per oggi è tutto, io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11. Buona giornata a voi e ai vostri bambini. Essere e benessere.